Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Ricorderete che alcuni mesi fa, forse più di un anno fa, in una mia precedente trasmissione su questa radio, sentimmo Giuseppe Pagano, che è responsabile della cooperativa Agropoli, che si trova a San Cipriano d'Aversa. Ci troviamo in terra di Casalesi, in provincia di Caserta, in terra di Camorra. Ebbene, questa cooperativa, presieduta da Giuseppe Pagano, fa delle cose meravigliose. Dove? Negli immobili sequestrati alla camorra. Sì, c'è ancora più gusto, ad esempio, a frequentare il ristorante che loro hanno. Pensate che c'è un sito che hanno dedicato alle loro attività che si chiama nuovacucinaorganizzata.it. Eh sì, perché hanno preso l'acronimo NCO, che fino a qualche anno fa voleva significare Nuova Camorra Organizzata, ed è quella che faceva riferimento a Raffaele Cutolo. Loro l'hanno trasformata in Nuova Cucina Organizzata. Buongiorno Pagano. Buongiorno a lei. Come va la vostra pizzeria? Bene, bene, bene. Grazie ai nostri concittadini che non solo vengono a trovarci, ma vengono a trovarci perché la nostra pizza e i nostri prodotti sono buonissimi. Bene, ma si possono pure acquistare via internet? Certo. Oh, allora lo ripeto con gusto. nuovacucinaorganizzata.it, visitatelo ed acquistate. Ma veniamo ad oggi. Allora, voi avete allargato il vostro tiro, le vostre iniziative, e ora su questo terreno confiscato alla camorra, poi ci torneremo per un aspetto un po' particolare, aiutate ragazzi con gravi disagi psichici. Ci spieghi un po' come affrontate queste storie difficili? Allora, noi partiamo da un presupposto, che Basaglia era un grande. Quando ha immaginato la 180, ha immaginato le persone con diritti e dignità e non semplicemente come persone da rinchiudere perché portatori di una patologia. Semplicemente ci siamo ritrovati a vivere un'esperienza con persone che con Basaglia avevano condiviso la chiusura dei manicomi, hanno messo su un sistema che si chiama budget di salute e con questo sistema c'è stata una riconversione della spesa sanitaria in provincia di Caserta. Praticamente ci siamo presi le persone legate dai letti, i cosiddetti pericolosi, certo. E si sono aperte gruppi di convivenza, cioè civili abitazioni. Noi ci siamo inventati sotto al nostro gruppo di convivenza un ristorante pizzeria dove lavorano anche i ragazzi. Al centro del paese tutto questo avviene. Con gli utili di questo ristorante pizzeria abbiamo deciso di ristrutturare un bene confiscato. Benissimo. Noi partiamo da un presupposto. Io non aspettiamo la luna, non aspettiamo i politici, non aspettiamo qualcuno per cambiare questo. Beh, se aspettate i politici fate notte probabilmente. E la stavamo facendo. È tutta l'Italia che fa notte con questa... con questa disgustosa attuale politica, purtroppo, però, come dite voi, è da passare a nottata e speriamo che passi in fretta. Senta, Pagano, recentemente però abbiamo letto sul Mattino una cosa che vorrei che avesse la sua interpretazione, cioè su questi terreni confiscati alla camorra un ragazzo, un bambino, un dodicenne, figlio di un boss, avrebbe deciso di darvi una mano come volontario. Non c'è nulla di male, però vorrei che lei spiegasse un po' questa richiesta, se l'avete accolta, com'è nata, se è naturale, insomma ci dica un po' lei. Io vi devo dire la verità, in realtà non è un ragazzo, sono dei ragazzi. Sì. Cioè vi spiego com'è nata. È nata perché nel iniziare a ristrutturare questo bene confiscato, l'abbiamo fatto con l'aiuto di volontari, con i campi di lavoro di Libera, con il Comitato Don Perpediano, con associazioni del territorio, abbiamo iniziato a ristrutturare il bene. Che cosa è successo? È successo che ci siamo ritrovati un gruppetto di ragazzini che è entrato, semplicemente mi aveva chiesto inizialmente di fumare. E io ho detto mettetevi nel giardino, sapevo che nel momento in cui gli dicevo di no li cacciavo via, mettetevi lì, fumate. Dopo qualche giorno gli abbiamo comprato un biliardino, la palla a canestro, sono diventati una quarantina, una cinquantina. Io devo essere onesto, pensavo che eravamo veramente bravi a creare questa situazione. Poi ho letto un paradosso, il paradosso che in realtà quei ragazzi cercavano semplicemente un buco dove giocare. Certo. Mi sono reso conto che il mio territorio non li vedeva. non li vedeva, non riusciva a vederli. Ma non li vedeva perché riconducibili a famiglie camorriste? Non li vedeva perché questo territorio, già vi so dire chi è il futuro Schiavone, chi è il futuro Sandokan, chi è il futuro Zaccaria, chi è il futuro Iovine. Certo. Ha il volto e le facce di quei ragazzi che questo territorio non riesce a vedere, non hanno spazi, non hanno voce, non hanno diritti. Non hanno un posto a misura di ragazzo, hanno un posto a misura di futuri camorristi. Ha ragione. È molto toccante quello che lei ci sta raccontando. Io vorrei che i radioascoltatori ascoltassero bene quello che lei ancora adesso avrà da dire. E come sono stati accolti dunque a questo punto questa quarantina di ragazzi? Non abbiamo fatto semplicemente nient'altro che mettere a disposizione delle attività, organizzare delle attività, fare delle attività. Vi dico la verità. Questo posto è particolare perché dovete sapere che il muro di cinta è alto più di 3 metri, aveva un reticolato in filo spinato sopra, quindi era un fortino. Noi ci siamo inventati, abbiamo bucato il muro, quindi si può entrare di giorno e di notte, tutti possono entrare. Certo. È libero, intendiamo bene come restituito alla comunità. E soprattutto tutti dovrebbero tenere a cuore l'attività di questa cooperativa sociale, di questa cooperativa Agropoli a San Cipriano d'Aversa, in terra purtroppo di Camorra. Io ringrazio il presidente Giuseppe Pagano per questo splendido intervento, Roberto Scaltritti in regia e Laura Faggini in studio e Roberto Calullo vi auguro una buona giornata.